vestirmi da sirena è come una visione magica. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere. Mia madre non lo deve sapere. Che scandalo, da sola ad Alghero, da sola ad Alghero con uno straniero. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere. Colorano un tramonto caldo e mitico. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere. Che voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero. Su spiaggia sola andalo da sola ad Alghero, da sola ad Alghero con uno straniero. Mia madre non lo deve sapere.